Il nostro momento giusto è questo qui, è questo qui. Saperci innamorati da morire, da morire. Scambiare l'anima mia con quella tua, amor. Ed amare da morire e poi capire che il nostro momento giusto è questo qui, saperci innamorati da morire, sentire il cuore tuo su quello mio, amor, ed amar da morire. Sentirei il cuore tuo su quello mio, amor, ed amar da morire, da morire, da morire, da morire. Da morire.